140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Torna il re degli 80 con un disco che vuole riscoprire lo spirito e i suoni di quegli anni, con l'album Reset Gazebo. Ho rispolverato le mie vecchie tastiere, le mie vecchie batterie elettroniche, le drum machine, le land drum, queste cose, e ho scritto molti dei pezzi di questo album proprio in quel modo lì, cioè prima il pianoforte con la batteriola elettronica, come si faceva all'epoca, e poi piano piano arrangiando sopra, no? Mentre oggi magari si tende a lavorare in modo diverso. E piano piano è venuto fuori il magma di questo disco. Poi è chiaro che magari oggi abbiamo delle tecniche di registrazione e delle capacità di gestione del suono molto più sofisticate di allora, per cui chiaramente mi sono anche rivolto a queste tecniche, però nella sostanza la carne, la polpa, il flash di tutto quanto è molto analogico, molto anni 80. Che impressione ti fa affrontare il mercato, la promozione, il pubblico adesso? Sembra è tutto un altro mondo. Tu non hai mai smesso, hai sempre continuato, però è tutto diverso. Beh sì, è diverso perché propongo una cosa nuova, no? Perché magari ho continuato a fare dei concerti, dei live, ho fatto anche un disco live un paio di anni fa che si chiamava I Like Live, eccetera. Però mi diverte questa cosa di tornare, no, come ai vecchi tempi, a promuovere un disco, a cercare di spiegare le canzoni nuove, a emozionarsi a sentirle per le prime volte magari in discoteca oppure nelle radio, perché noi le viviamo in studio, poi non sappiamo mai poi in realtà come suonano poi in altri contesti, no? Per cui è sempre una scoperta, e devo dire che è divertente ed è bello quando c'è gente che magari ti dà l'opportunità di poterlo fare, perché non è così facile oggi. Io mi chiedo sempre, ma quando una persona ha fatto un successo così strepitoso, quelle canzoni le ama o le odia? Cioè, tu quando... Ma non ti viene mai voglia di dire basta? Cioè... Sì, beh, in effetti è una convivenza molto difficile, perché è chiaro che uno vorrebbe andare avanti. Ma io sono stato abbastanza bravo nel suicidarmi commercialmente già dal secondo album. Ci vuole del talento. Esatto. Per cui proprio ho sentito questo problema dopo, no? Ho previsto 30 anni di vita, ho detto io fra 30 anni non posso star lì sempre a cantare like Chopin. Così al secondo album ho fatto Telephone Mama, che era un disco totalmente diverso dal primo, che appunto commercialmente è un suicidio, però ecco... Era bello, Telephone Mama, ce la ricordiamo tutti anche quella, è inutile dire che era un suicidio perché era molto bella anche quella. Sì, è un suicidio, diciamo, dal punto di vista, mentre tutti copiavano like Chopin... Tu avevi deciso di fare altro. C'è un'altra strada. Però è tipico, io credo che l'artista debba avere questo spirito, perché se no diventi un impiegato, no? Diventi un impiegato di te stesso, fai sempre le stesse cose, non trovi stimoli per andare avanti, no? Oggi magari rivedo quel periodo lì con l'occhio, la sensibilità di una persona che ha vissuto 30 anni e di conseguenza con un'autocompiacenza, un'altra indulgenza verso se stessi un po' diversa. E Alex Chopin è un brano che sicuramente caratterizza la mia vita, però lo vedo ormai talmente che appartiene ad altre, appartiene alle persone, non appartiene più in qualche modo a me, no? Perché tant'è vero che molta gente sa di Alex Chopin ma non sa che l'ho cantata io, no? Cioè, chi non mi conosce, chi non ha vissuto gli anni 80 conosce la canzone, ma forse qualcuno non conosce me. Per cui questo è sintomo del fatto che ormai appartiene alla gente la canzone. Early morning, you're not around, not a sound. And your perfume is in the air, unaware. You walked away like an angel diving in the ocean, like a butterfly in the sea. Could I only watch you take off? Wet winds hold me down. I reach for you, but I'm on the ground. I'm bound to all the promises and all the things you left inside. Inside me, wet wings in the dark. While the cold is hitting hard, I'm scared to let the sun inside. Paul, adesso quali sono le tue aspirazioni oltre a questo resettare e ripartire da capo? Adesso quali sono i tuoi obiettivi? Beh, adesso diciamo nell'immediato sicuramente portare questo disco dal vivo, no? In un contesto molto anni 80, un po' come la mia prima tournée. Io feci la mia prima tournée che era basata sui video, mettere questa volta sul palco due o tre musicisti però elettronici e fare un spettacolo come l'avremmo concepito 30 anni fa. Italia è fuori, visto che tu il tuo pubblico ce l'hai dappertutto. No, l'Italia c'è assolutamente. Io sono orgoglioso di essere italiano e tengo a precisare che in Italia non è detto che si debba per forza fare soltanto canzoni all'italiana, no? o in italiano. Si possono fare delle canzoni italiane, culturalmente italiane, ma anche in lingua inglese, perché no? Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Gazebo. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.